Il 16 giugno scorso usciva Maestrale, il nuovo album del Muro del Canto, e esattamente un mese dopo, il 16 luglio, a Ponticelli di Malalbergo ci sarà il loro concerto all'interno del Solidarity Festival. Noi siamo al telefono con Daniele Coccia, che saluto, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, è un album all'insegna di diverse novità, ad esempio a partire dall'etichetta. Sì, siamo passati da Goodfellas, che ci ha accompagnato per quattro dischi, che distribuirà comunque il nostro nuovo disco. Siamo passati a Fiori Rari, una nuova etichetta di Roberto Angelini. C'è anche una storia particolare attorno a questo album, per come lo avete realizzato. Leggevo che avete lavorato in aperta campagna. Sì, costretti dal Covid, dalle restrizioni che ci sono state, quindi per vederci dovevamo comunque inventare qualcosa, perché le sale prove erano off limits, quindi ci siamo portati l'amplificazione nella mia casa di campagna, nella mia vigna, e abbiamo suonato all'aperto. E quindi ecco, così abbiamo realizzato il disco, che secondo noi poi ci ha molto influenzato la campagna, l'aria aperta, e ci ha rimesso un po' con i piedi per terra, diciamo. E infatti volevo proprio chiedervi questo, insomma, in che modo vi ha ispirati? Ci ha ispirato forse anche la possibilità di stare all'aperto, il fatto che comunque in quei giorni potevamo solo fare delle scampagnate, stare all'aperto continuamente, cioè quello che potevamo fare era quello. Quindi comunque in quel periodo, diciamo, ci siamo un po' riavvicinati all'ambiente naturale, e questo sta anche nel disco. Spesso ci siamo ritrovati, rileggendolo dopo, rileggendo i testi, ci siamo ritrovati, questa canzone si chiama Controvento, si parla di altre cose ma c'è il vento, cioè ci siamo trovati che poi era sempre il mondo circostante, la natura, che ci siamo accorti ci aveva ispirato. Ascoltando il disco lo trovo, insomma, mi è sembrato piuttosto riflessivo, non che i vostri lavori precedenti non lo fossero, però insomma una riflessione anche sul nostro ruolo nel mondo, sulla libertà. Sì, perché diciamo è stato un periodo in cui la riflessione è stata forte, quindi penso che si senta, e la riflessione sulla libertà che già facevamo prima forse è diventata più profonda e più centrale nel lavoro. Tu prima citavi Controvento, nel testo è una riflessione anche amara a volte. È molto amara, però ecco, diciamo che c'è anche la voglia di riscatto, la voglia di fare, di mettersi in gioco, non aspettare, diciamo, passivamente che le nostre libertà ci siano riconosciute dall'alto, da chissà chi, cioè diciamo siamo noi che dobbiamo conquistarle. 16 luglio a Ponticelli porterete interamente il nuovo disco o portate anche vecchi vostri successi? Entrambe, ce ne faremo molte canzoni vecchie e molte delle nuove, cercheremo di fare tutte e due. Le novità però non sono finite, perché ho visto che a agosto aprirete i concerti di Ben Harper e The Innocent Criminals. Com'è stata sta cosa? Il nostro booking organizza anche i suoi concerti, ne facemmo uno anche a Torino qualche anno fa, fu un'esperienza molto bella. Adesso, finito il Covid, perché dovevamo fare forse lo scorso anno, ma poi la sua tournée non c'è più stata, e siamo contenti perché sono ben quattro date, cioè avremo così la possibilità di andare anche in Sardegna, alla data di Ben Harper abbiamo attaccato altre tre date nostre. Sarà una bellissima possibilità, perché lo stimiamo molto musicalmente, siamo contenti di poterlo rivedere anche dal vivo, cioè quando ho finito il nostro concerto ci vediamo quattro suoi bei concerti in prima fila, quindi per noi è un'esperienza bellissima, siamo contentissimi. Certo, senti, ti faccio un'ultima domanda che riguarda un po' più in generale la musica nel nostro paese. Stiamo vedendo in quest'estate di riapertura dopo la pandemia tantissimi mega eventi, a volte alcuni hanno anche delle polemiche. Il Muro del Canto porta una dimensione un po' diversa, voi avete un rapporto molto stretto col pubblico, quindi ci sono diversi modi di fare musica e rapportarsi con il proprio pubblico. Sì, diciamo che noi, per noi il nostro pubblico sembra una cosa banale, scontata, è centrale, perché diciamo in due anni in cui abbiamo composto e siamo stati distanti dal pubblico, questo elemento ci è mancato molto, ci sono mancati proprio live. Adesso rivedere le persone che escono di nuovo e stanno di nuovo insieme, possono farsi una serata anche tranquilla tra pochi intimi oppure concerti più grandi, però vederli tutti insieme per noi è una soddisfazione soddisfazione enorme vedere le persone che si muovono, magari fanno tanti chilometri per venirci a vedere, che il giorno dopo devono andare a lavorare, come è successo ieri, che tanti si sono spostati magari da Roma, da altre province per venire a Frosinone. Per noi è una grossa soddisfazione, perché da lavoratori quali siamo ci rendiamo conto che seguire concerti è stancante, quindi magari vedere sempre delle persone che ci stanno sempre, per noi è bellissimo. Quindi ecco, abbiamo un rapporto molto diretto, li conosciamo poi di persona, ci parliamo prima, ci parliamo dopo, magari qualcuno ti invita a cena, si fanno eventi anche col fan club, diciamo è bellissimo. Sembra scontato, però è per noi una cosa centrale, importante e molto umana. E allora io intanto ti ringrazio, ricordo l'appuntamento il 16 luglio, quindi sabato prossimo, a Ponticelli di Malalbergo all'interno del Solidarity Festival, il concerto del Muro del Canto, e noi ci salutiamo ascoltando proprio Controvento, che abbiamo citato. Grazie mille, Daniele. Grazie a te.